Salvadanaio. Le 12:11:54, bentrovati a Salvadanaio da Valentina Furlanetto. Questa puntata è dedicata alle pensioni e alla tracciabilità. Ne parliamo tra poco con alcuni ospiti. Ovviamente daremo uno sguardo anche ai mercati in attesa della decisione della BCE di oggi per un taglio o meno sui tassi di interesse. Dicevamo la tracciabilità perché dal 1° di luglio, probabilmente molti voi lo sapranno, è scattato lo stop definitivo ai pagamenti in contanti dai 1000 euro in su anche per la pubblica amministrazione. Il divieto che era già previsto a marzo dalla manovra Salva Italia, finalizzata a una maggiore tracciabilità, quindi a rafforzare la lotta all'evasione fiscale, e coinvolge anche tutti i pensionati. E questo è il tema, il focus di oggi di Salvadanaio. La gran parte di questi pensionati ha già provveduto incaricando al proprio istituto di previdenza le modalità scelte per un accredito tracciabile, quindi conto corrente, carta, libretto postale, ma alcuni pensionati non hanno ancora provveduto. Sono, secondo i calcoli degli esperti, circa 25.000, stando alle stime dell'INPS che vengono riportate anche dal Sole 24 Ore. Cosa succede in questi casi? Lo scopriremo proprio questa mattina grazie alla presenza di alcuni esperti. Saluto intanto in studio Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Poi abbiamo in collegamento Nicola Forte, consulente tributario a Roma ed esperto del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Vi anticipo che nell'ultima parte della trasmissione avremo in collegamento una responsabile dei prodotti finanziari del mercato privato delle Poste Italiane, alla quale potrete fare delle domande telefonando all'800 24 00 24 oppure via sms 349 238 6666. Vi ricordo anche che siamo su Facebook, c'è una pagina di Salvadanaio, potete andare lì e fare le vostre domande, portare le vostre i problemi che avete incontrato, i dubbi, quello che ancora non vi è chiaro su questa disposizione, perché in effetti adesso innanzitutto ci sarà una fase transitoria che andremo a descrivere. La buona notizia sul fronte dei pagamenti è che le una tantum, come le tredicesime e gli altri conguagli che fanno superare in via del tutto eccezionale magari una volta all'anno il limite dei 1000 euro, ecco, queste è stato confermato dall'INPS che in questi casi non è obbligatorio adottare un conto corrente o uno degli altri strumenti disponibili. Ne parliamo subito dopo con gli esperti e col vostro aiuto, ma prima diamo uno sguardo a ciò che sta accadendo sui mercati, che oggi, l'abbiamo detto anche durante il GR, si muovono con una certa circospezione, stanno attendendo un po' la decisione delle BCE sui tassi di interesse. L'abbiamo detto, è probabile un calo dello 0,25%, così prevedono gli analisti. Ci sono state anche una serie di aste oggi in Spagna, Irlanda e Francia. L'attenzione ovviamente verso l'asta spagnola è stata molto alta. La Spagna ha venduto bond per 3 miliardi registrando tassi in rialzo. Il titolo a 10 anni ha registrato un tasso del 6,43% dal 6,04 dell'asta del 7 di giugno. In questo momento Milano è poco sotto la parità, con il FTSE MIB a meno 0,03%, FTSE Italia Share meno 0,02%, anche Parigi negativa, meno 0,13%, Londra e Francoforte invece positive, Londra più 0,29%, anche in Inghilterra si attende la decisione della Banca d'Inghilterra sui tassi, Francoforte più 0,64%. In Germania tra l'altro sta per essere annunciata la variazione mensile degli ordinativi dell'industria tedesca, prevista in calo, ma la borsa, almeno a Francoforte in questo istante, è positiva. I temi sui mercati: volano in generale i titoli automobilistici spinti da Volkswagen, più 6% Volkswagen, che ha completato l'acquisizione di Porsche. Seguono in questa scia di rialzo anche BMW, Daimler e Peugeot, mentre Lingotto in questo istante è positivo, più 0,69%. Prima aveva un po' frenato il rischio che ci sia uno stabilimento di troppo in Italia, così come ha ventilato l'amministratore delegato Marchionne, frena un po' il titolo dopo il balzo di ieri dovuto alle vendite Chrysler in Canada. Alti e bassi in campo bancario, e da questo punto di vista a Milano Unicredit è la migliore, più 1,48%, Popolare di Milano più 1,47%, Popolare dell'Emilia più 0,8%. 83, il Banco Popolare più 0,29, Mediobanca più 0,18, Ubibanca meno 0,54, tra le negative anche Monte dei Paschi meno 0,35 e Intesa meno 1,83. Fra gli altri temi a Piazza Affari, Snam che cede l'1,33. È il titolo peggiore sul listino principale. La società ieri ha collocato un bond a 4 anni presso investitori istituzionali da 1 miliardo di euro. Il titolo oggi appunto non va bene. Finmeccanica e Ansaldo invece sono le migliori. Ansaldo guadagna il 3,79, Finmeccanica il 3,72. Oggi sul Sole 24 Ore si scrive che c'è in attesa un'offerta di Siemens su Ansaldo Energia. Sarebbe pronto il colosso tedesco Siemens sarebbe pronto a pagare 1,3 miliardi. Eni più 0,35, Enel meno 0,71, Generali meno 1,54 e Telecom meno 0,72. Per chiudere questa lunga pagina di borsa, euro sul dollaro a 1,25,10 in questo istante. Torniamo alla tracciabilità, torniamo alle pensioni in contanti, definitivo il tetto a 1000 euro, sentiamo i particolari nella scheda. Stop ai pagamenti in contanti dai 1000 euro in su, e questa volta per davvero. Se ne parla da tanti mesi, ma questa regola, prevista dalla manovra Salva Italia, l'opera prima del governo Monti, è diventata definitiva solo con il mese di luglio, e quindi da questa settimana. In nome della tracciabilità, anche la pubblica amministrazione non può quindi erogare compensi e pensioni cash se superiori a 999,99 euro. Il divieto doveva entrare in vigore a marzo, ma l'attuazione è stata posticipata all'estate dal decreto sulle semplificazioni fiscali. Comporta un unico cambiamento nelle abitudini dei cittadini: l'utilizzo, nel caso ancora non l'avessero previsto, di strumenti elettronici o che in ogni caso permettano di tracciare l'entrata per l'accredito delle proprie mensilità. Una novità che potrebbe aver disorientato inizialmente soprattutto i pensionati, anche se ad oggi la stragrande maggioranza sembra aver ormai provveduto adottando conti correnti, libretti postali o carte prepagate. Ma cosa succede a chi ancora non ha provveduto a comunicare una nuova modalità per il pagamento? Per questi pensionati, 25.000 secondo le stime INPS, è previsto un periodo di sospensione. Le loro pensioni saranno infatti parcheggiate in un conto di servizio transitorio, per poi essere trasferite, senza oneri, sul nuovo strumento, una volta scelto. Fino a quel momento la persona non potrà disporre del suo denaro e se continuerà a non dire nulla fino al 30 settembre, le somme saranno restituite all'INPS, che comunque garantirà il pagamento una volta comunicata la modalità adottata. In alternativa ci si potrà attivare chiedendo di ricevere eccezionalmente un assegno di traenza, che può essere consegnato materialmente. Nel frattempo è stato chiarito un giallo, quello relativo al pagamento della tredicesima, che avrebbe portato in molti casi a superare solo una volta all'anno la soglia consentita. In questi casi di superamento straordinario e una tantum, chiariscono dall'INPS, il pagamento non è soggetto all'obbligo di tracciabilità. Insomma, avete sentito, i temi sono tanti, cercheremo di capire qualcosa di più. Immagino che molti di voi all'ascolto avranno questo problema, magari pensionati che appunto non hanno ancora aperto un conto o si stanno chiedendo cosa devono fare. Gianni Trovati, il collega del Sole 24 Ore, che è qui con noi in studio per chiarirci tutte queste cose, insieme all'esperto Nicola Forte, che andremo a ascoltare tra poco. Tu hai scritto parecchi pezzi su questo e mi sembra che il nodo, quello della pensione che magari nell'una tantum supera l'importo di 1000 euro magari per la tredicesima, sia un po' superato. Da questo punto di vista potremmo essere più tranquilli. Sì, è stato superato da una recentissima circolare dell'INPS che ha spiegato come appunto quando la soglia dei 1000 euro è superata, diciamo così, per eventi eccezionali che sono per esempio la tredicesima, ma anche il pagamento contestuale di rate arretrate per svariate ragioni con la rata mensile normale della pensione, ecco, in questi casi non si considera obbligatorio adeguarsi, diciamo, agli obblighi di tracciabilità, quindi adottare strumenti tracciabili come il conto corrente prima di tutto, ma anche le carte di credito e debito, le prepagate, cose così. la questione, diciamo, è stata poi si è poi intrecciata con l'obbligo previsto dalla legge stessa per gli istituti di credito di mettere in campo dei conti base per questo tipo di utenza, cioè conti privi di costi aggiuntivi. Questo è, come dire, un fatto ovvio ma non scontato, ovvio perché se io sono obbligato dalla legge a per esempio aprire un conto corrente, questo conto corrente non può trasformarsi, diciamo, in un business per le banche, non scontato perché sappiamo che, insomma, i margini bancari sono un fatto molto importante, soprattutto in questi tempi in cui anche le banche partecipano, diciamo così, dei problemi che un po' tutte le imprese hanno sui margini. Comunque l'intreccio, diciamo, tra questi due problemi ha allungato un pochino i tempi rispetto al calendario originario, ma adesso ci siamo quasi. Rimane il fatto che questa è una platea, diciamo così, non sempre, non del tutto immediatamente recettiva a questo tipo di novità, come è ovvio che sia, perché tra l'altro, come dire, parliamo di persone anche spesso anziane e che comunque, come dire, legata all'abitudine di andare in posta a prendere il contante e così via. Va detto che, questo a titolo di curiosità, la norma, quando è stata fatta, è stata presentata, diciamo così, come un aiuto anche per evitare furti, scippi e rapine. Va detto che, insomma, questo scopo in realtà è abbastanza secondario, anche perché se io metto la pensione sul conto corrente poi devo andare al postamat o al bancomat, mi possono tranquillamente rapinare al bancomat. Certo, l'altra questione dell'evasione fiscale, ecco, che forse al di è un là, po' più al di, là, al di là della motivazione ufficiale che venne appunto sottolineata dal governo e così via all'atto della norma, la questione è che questa regola si inserisce in tutto un complesso molto ampio di regole che vogliono scoraggiare, se non proprio impedire, l'uso del contante anche a basse cifre, perché insomma 1000 euro non è uso del contante, che in Italia è molto più diffuso ancora, o comunque era molto più diffuso fino a pochi mesi fa rispetto a grandi paesi europei comparabili, e che ha un ruolo non secondario, diciamo così, nel fiorire della microevasione, che magari è microevasione nel singolo atto, ma siccome sono tanti atti, poi va ad alimentare quel mare molto imponente che è l'evasione, certo, fiscale italiana. Quindi pagamento di banchettini, nozze, agenzie di viaggi e quant'altro. D'ora in poi idraulici. Sopra, idraulici, dai 1000 euro in su, insomma, non si potrà più fare in contanti, e questo dovrebbe scoraggiare. Esattamente. Infatti le due norme sono proprio collegate. Da un lato io non posso ricevere più di 1000 euro in contanti con la pensione, con la norma di cui stiamo parlando stamattina, dall'altro non posso pagare nulla sopra i 1000 euro in contanti, perché scatta l'altra norma sulla tracciabilità che me lo impedisce. Nicola Forte, consulente tributario a Roma, esperto del Sole 24 Ore. Cosa succede se il pensionato non ha comunicato gli estremi del conto corrente e la pensione supera i 1000 euro? L'abbiamo un po' sentito dalla scheda, ma chiaramente questo preoccupa molto, come diceva anche Gianni Trovati, è una platea di persone ovviamente anziane, sono pensionati e che quindi hanno delle preoccupazioni reali. Certo, la conseguenza immediata è che di fatto il pensionato non riceverà, non avrà più la disponibilità di quella somma che mensilmente è abituato a ricevere, perlomeno nella fase transitoria. L'INPS accantonerà queste somme, come è stato spiegato dalla scheda, su un conto di servizio infruttifero di interessi e senza costi per il pensionato, e durante questa fase transitoria il pensionato potrà effettuare la sua scelta, potrà aprire un conto corrente bancario, postale, un libretto, e in questo caso le somme temporaneamente congelate su questo conto di servizio di fatto saranno sbloccate, una volta comunicata la scelta effettuata dal pensionato nuovamente saranno messe a disposizione del pensionato stesso. Ecco, questa fase transitoria, questo periodo, è un periodo di 3 mesi, va fino al 30 settembre, e nel caso in cui non fosse effettuata alcuna scelta entro questo periodo, entro questo lasso, cosa succede? E le somme nuovamente dal conto transitorio torneranno all'INPS o alla pubblica amministrazione. Questo ovviamente non vuol significare che in concreto il pensionato perderà il diritto a percepire la pensione non riscossa temporaneamente per quei 2 o 3 mesi, semplicemente è che ci sarà un procedimento più lungo, ci si attiverà decorso questo periodo, fase transitoria, 30 settembre, e ovviamente successivamente, una volta fatta la scelta per lo strumento, queste somme nuovamente potranno essere richieste e entreranno nella disponibilità del pensionato. Poi chiaramente sempre in questa fase transitoria, se il pensionato è indeciso, nel senso che vuole ancora prendere del tempo per aprire un conto corrente bancario, postale, vuole rendersi conto appunto dell'offerta, anche perché, come è stato appunto ricordato da Gianni Trovati, appunto la convenzione è stata stipulata dal 1° giugno, operativa una convenzione tra con le banche e le poste. Esattamente, se io voglio rendermi conto potrei attivarmi, potrei ottenere il pagamento, pur non avendo ancora effettuato alcuna scelta, con un assegno cosiddetto di trenza. L'assegno di trenza è un assegno che può essere messo a disposizione del pensionato, che però reca chiaramente l'indicazione di una data, cioè un assegno a termine non trasferibile. Entro la data indicata dall'assegno stesso, il pensionato potrà riscuotere appunto la somma. Pensione. Molti ascoltatori ci scrivono al 349-238-6666 chiedendoci se le transazioni di beni, anche fra privati, sopra la soglia dei 1000 euro debbano essere tracciate. Certamente sì, Gianni, no? Sì, certamente. Se andiamo in un negozio, appunto da un privato che ha un negozio, a comprare una cosa che costa più di 1000 euro, non possiamo pagarla in contanti a meno che noi non siamo turisti stranieri per pochi giorni, diciamo, in Italia. Questa deroga è stata introdotta proprio per la levata di scudi dei commercianti di alcune città che, come dire, lavorano molto. Da russi e russi, giapponesi, cinesi ricchi, medio orientali facoltosi. Che appunto hanno ottenuto una deroga, ma solo ed esclusivamente per loro. Tra l'altro, anche nel loro caso, adesso non ci addentriamo, ma ci sono degli strumenti di tracciabilità, perché si è voluto evitare che gli stranieri, come dire, facessero da appoggio ad acquirenti italiani che, per sfruttare questo canale alternativo, perché la tracciabilità non è una bestia facile, nel senso che preoccupa molto una ben determinata e ampia in Italia categoria di persone. Sì. Poi il genio italico si sarebbe sì, avrebbe dato del suo meglio. Francesco della provincia di Taranto, buongiorno, benvenuto. Pronto, buongiorno. Buongiorno, qual è la questione che vuole sottoporci? Sì, quanto riguarda le pensioni. Allora, sì, le spiego. Una mia zia ha la pensione più l'indennità di accompagnamento, quindi supera le 1000 euro. È arrivata circa 4 mesi fa una comunicazione dell'INPS che ci invitava ad aprire un conto corrente o comunque a fornirgli un IBAN. Quasi immediatamente, dopo una settimana, ci siamo attivati e io personalmente ho mandato una comunicazione all'INPS fornendogli l'IBAN. In questi mesi la banca non sa nulla, la banca dove mia zia ha il conto corrente. E attualmente questo mese non ha ricevuto l'indennità di pensione perché... Cioè mesi fa voi avete dato tutti i dati all'INPS e nonostante questo, quindi l'IBAN, i dati bancari, e nonostante questo non è arrivata la pensione? Comunque perché mia zia era un po', è abbastanza anziana, ha 89 anni e quindi voleva per forza prendere i soldi in contanti dalla posta. Nonostante tutto il conto corrente ce l'avesse già. Comunque non l'abbiamo aperto adesso. Apposta. No, apposta per questo motivo. Comunque l'aveva già questo conto corrente, è bastato soltanto fornirgli le coordinate bancarie all'INPS. Ho fatto una raccomandata con ricevuta di ritorno, pensavo che fosse tutto a posto, però in questi mesi comunque... Avrà un problema con la banca, ci sarà stato un problema in questo caso di comunicazione con la banca, immagino. Nicola Forte. Sì, ecco, l'ascoltatore ha precisato le modalità con cui è avvenuta la comunicazione, io stesso me lo chiedevo perché la possibilità può essere sia telematica con il sito IMSS sia attraverso il servizio postale. Sì, bisognerebbe comprendere alla radice dove è il problema, cioè se il flusso telematico dell'IMSS è partito e quindi non è un problema legato all'IMSS, oppure se viceversa è un problema legato alla banca. Direi in ordine occorrerebbe prima presentarsi, chiarire la situazione con la banca e poi eventualmente se dal colloquio con la banca non emergono particolari problemi a livello bancario, recarsi presso una sede zonale dell'INPS e verificare effettivamente se si è interrotto il flusso, cioè se proprio non è partito l'ordine di accredito della pensione. Bruno da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, volevo chiedere questo, io ho il conto corrente in banca, mi arriva la pensione oggi di 1200 euro, domani posso andare a ritirarne 1000? Beh, penso proprio di sì, Gianni. Certamente sì. Una volta, diciamo, accreditata la somma sul conto corrente bancario, la somma è sua e deve seguire le normali regole dei rapporti bancari. Cioè, normalmente, se ha questa possibilità, certo, con la sua banca o meno di ritirare 1000 euro. Però andando tutti in banca, sicuramente sì. Ecco. Va bene, grazie. Grazie a lei. Tra l'altro un ascoltatore, Gianni, ci scrive, l'ascoltatore che ci poneva prima la questione sulle transazioni private, chiarisce che lui intendeva la vendita tra privati, ad esempio di automobili da privato a privato, mi viene in mente anche il pagamento delle badanti, devono essere tracciate sopra i 1000 euro? Nel caso delle badanti proprio sì. Sì, la regola è quella, insomma, poi l'esempio del negozio che facevo io, che è un altro tipo di transazione tra privati, segue le stesse regole. La regola impone di non, anzi mettiamola meglio, la regola impedisce di effettuare transazioni superiori ai 1000 euro in contanti, punto. E questo determina il fatto che, in tutte le tipologie di transazioni si debbano utilizzare strumenti alternativi e tracciabili. Un altro ascoltatore via SMS ci scrive: quali sono le sanzioni per gli esercenti che accettano contanti superiori a 1000 euro? Questo è interessante, in effetti, forte. Sì, abbiamo una sanzione che è variabile, va dall'1 al 40% della somma che è stata trasferita. In realtà qui occorre fare una precisazione, che quando si trasferisce una somma in contanti per importi pari o superiore a 1000 euro, come spiegato anche dall'Agenzia delle Entrate, in realtà l'infrazione, la violazione è commessa da due soggetti, cioè sia da colui che materialmente trasferisce, cioè paga, sia dal soggetto che riceve la somma. In ogni caso ci sono anche dei meccanismi, cosiddetta oblazione, non voglio entrare in eccessivi tecnicismi, ma comunque tramite questo meccanismo si ha la possibilità di ridurre la sanzione che viene erogata. Peraltro, ecco, su un punto forse è bene fare chiarezza, il limite del trasferimento del denaro contante per importi pari o superiori a 1000 euro non opera esclusivamente con riferimento alle transazioni, cioè l'acquisto di un bene, la vendita di un bene, una prestazione di servizi, ma per le somme trasferite a qualsiasi titolo. Faccio un esempio: uno zio decide di prestare una somma di denaro a un nipote, quindi in questo caso non c'è né un acquisto né un servizio, anche in questo caso se la somma raggiunge o supera la soglia di 1000 euro, il trasferimento deve essere effettuato tramite uno strumento tracciabile, ad esempio un assegno bancario non trasferibile, un bonifico o altri strumenti in grado di assicurare la tracciabilità. Gianni, mi ha stupito, sono davvero molti pensionati che ancora non hanno scelto, 25.000 si calcola. Sì, appunto, io penso che adesso con l'entrata in vigore effettiva di questo strumento, il fatto che non arrivi materialmente la pensione, come dire, spinga anche buona parte di questi 25.000 ad attivarsi, o comunque i parenti, insomma, chi segue questi soggetti ad attivarsi. La cosa importante da dire, lo ricordava Nicola Forte prima, lo diciamo con altrettanta chiarezza, in qualunque caso la pensione arriva. Quando si sceglie la pensione arriva, c'è appunto questo meccanismo di doppio step, di regole transitorie per cui fino al 30 settembre la pensione viene messa nel conto infruttifero, poi viene ritrasferita dopo il 30 settembre in caso di mancata scelta all'istituto di previdenza, ma in qualsiasi caso la pensione è un diritto, diciamo, acquisito oltre ogni ragionevole dubbio e di conseguenza teoricamente, come dire, si potrebbe anche arrivare a dicembre o a gennaio dell'anno prossimo, effettuare la scelta e in quella sede ricevere poi con lo strumento tracciabile scelto tutti gli arretrati che non si sono ricevuti prima. Funziona diverso, insomma, rispetto per esempio ai conti dormienti, no? Tema molto in voga qualche anno fa, conti che la gente si era forse un po'. Sì, anche perché con la crisi economica io penso che poca gente abbia la possibilità di dimenticarsi i conti correnti. Comunque sì, in quel caso dopo un po' il conto, diciamo, si smarriva dopo molti passaggi. La pensione no, la pensione è un diritto, rimane sempre. Chiaramente questi 25.000, che è un dato che noi abbiamo avuto la settimana scorsa, quindi prima dell'entrata in vigore, può essere già cambiato. Questi 25.000, diciamo, queste 25.000 mancate scelte dipendono in primo luogo dalle caratteristiche particolari della platea, appunto, che dicevamo prima, ma il fatto che con l'entrata in vigore effettiva del meccanismo si blocchi concretamente l'arrivo della pensione muoverà molti, nel senso che prima tu avevi appunto queste comunicazioni, questo invito a effettuare la scelta, ma fino al mese scorso la pensione si poteva ancora ritirare con i vecchi metodi e di conseguenza, diciamo così, la spinta a effettuare in fretta la scelta era meno stringente. Ora invece non c'è alternativa. Un ascoltatore che lavora in banca e dichiara appunto di lavorare in banca via SMS ci scrive: l'INPS già prima impiegava 3 mesi ad agganciare le pensioni ai conti correnti. Ecco il più problema. Questo è un problema, in effetti. Molti ascoltatori, un po' allargando il tema alla tracciabilità, noi cercavamo di focalizzarlo sulle pensioni, ma giustamente le domande sono molte, si chiedono appunto Forte se tutte le transazioni siano soggette, abbiamo già chiarito sì. Ad esempio un ascoltatore scrive: se devo restituire un prestito a un amico o un parente maggiore di 1.000 euro, devo giustificare il relativo assegno? Un altro dice: se compro un bene da un privato a privato e lo pago in 12 rate mensili da 500 euro, posso pagarlo in contanti? Massimo da Udine. Insomma, sono molte le domande. Nicola Forte. Certo, la prima parte l'abbiamo già chiarita, sì. Non solo le transazioni, ma qualsiasi trasferimento indipendentemente dalla causale, quindi con riferimento al quesito del primo quesito del radioascoltatore, sicuramente anche per la restituzione di prestiti. Per quanto riguarda invece i pagamenti rateali, e qui chiaramente c'è un'apertura, una soluzione, quando il problema in realtà non è completamente nuovo, perché oggi chiaramente si è aggravato, acuito, perché il limite è molto basso, è 1.000 euro, prima era 2.500, prima ancora era 5.000, ma già l'ufficio italiano cambi, e poi è sostituito dall'UIF presso la Banca d'Italia, un organismo di vigilanza, aveva già chiarito che in realtà la finalità della norma, cioè i pagamenti rateali, che sono sostanzialmente dei comportamenti consolidati nell'ambito di un'attività commerciale, cioè è logico, è normale, è una consuetudine, non c'è una finalità a frazionare, non c'è un intento di elusione della norma, cioè non fraziono il pagamento per eludere il limite di 1.000 euro, è, ripeto, una consuetudine, rientra nella prassi consolidata un pagamento rateale, quindi quando c'è un piano rateale ben individuato, con delle scadenze prefissate, sicuramente si può rateizzare. Le singole rate sono sotto i 1000 euro, il comportamento è assolutamente corretto, pagare in contanti. Daniela via SMS ci fa notare che l'evasione, insomma, con l'indraulico, l'imbianchino, eccetera, pagato in 2-3 volte, insomma, un po' difficile combatterla, e in questa maniera in effetti è un problema che si pone, Gianni. Beh, l'evasione fiscale in Italia è un problema endemico, e quindi ogni strumento presta il fianco, ha delle possibilità di essere aggirato. Questo è inevitabile, diciamo così. È impossibile pensare di far accompagnare l'imbianchino, l'idraulico, dal un ufficiale della Guardia di Finanza o da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate che controlla. Va detto però che comunque appunto l'evasione, diciamo la microevasione diffusa, è collegata molto strettamente ed è quasi proporzionale all'utilizzo del contante. Ogni strumento che cerca di abbassare le soglie di utilizzo ha una funzione antievasione che in parte riesce, in parte no, perché viene l'uso. Comunque potrebbe essere un deterrente. Nicola Forte, un ultimo punto, e poi volevo anche aprire la discussione a Francesca Sabetta, responsabile prodotti finanziari e mercato privati delle Poste Italiane, che è qui con noi. Buongiorno intanto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, Nicola Forte, c'è anche la possibilità di aprire un conto corrente bancario o postale tramite delega o procura, no? Sicuramente, questo era comunque possibile, e quindi anche prima che dalla manovra Monti fino a oggi sono intervenute una serie di disposizioni che hanno semplificato l'apertura di un conto corrente tramite delega. In particolare, i soggetti che sono già delegati alla riscossione, quindi la delega ha un oggetto ben individuato, possono attraverso una determinata procedura recarsi presso la banca, un ufficio postale, ed aprire, facendo valere la delega alla riscossione, possono aprire appunto un conto corrente o un libretto postale. Chiaramente la procedura è descritta da una legge, da un decreto legge, deve essere esibita una copia del documento di identità del beneficiario del pagamento, più documentazione attestante la delega della riscossione, alla riscossione di cui sono già in possesso, e in più il soggetto che ha la delega per la riscossione si reca in banca o presso l'ufficio postale deve rendere una dichiarazione attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti del beneficiario che non hanno consentito al beneficiario stesso di provvedere personalmente all'apertura del conto. La circostanza può essere dovuta ad esempio da gravi motivi di salute, dallo stato di salute carente del soggetto delegante, o addirittura perché è materialmente impedito, perché si trova in uno stato di detenzione, perché ovviamente ci possono essere dei casi in cui anche chi si trova in uno stato di detenzione, di custodia cautelare, riceve una pensione e materialmente non si può recare presso una banca o un ufficio postale ad aprire appunto uno strumento. Sì, per tutti i casi in cui non si può recare in prima persona. Assolutamente, quindi è una semplificazione, perché io faccio valere la delega per la riscossione come delega per l'apertura. Di uno strumento. Di uno strumento per riscuotere la pensione. Allora, Francesca Sabetta, che ringraziamo di essere qui per quest'ultima parte di Salvadanaio, è in rappresentanza delle Poste Italiane. L'abbiamo detto, presso le banche o presso le Poste Italiane si possono aprire questi conti, questi strumenti attraverso i quali far passare la propria pensione. Gianni Trovati giustamente prima sottolineava il fatto della nascita, insomma, di questi conti di base, dell'opportunità di aprire dei conti di base, perché questo non diventi un modo per le banche, ad esempio, di lucrare su questa nuova norma. Quali sono gli strumenti che hanno le persone, magari anziane, e quali sono i parametri che devono avere per avere un conto di base? Sì, allora, buongiorno a tutti. Intanto diciamo che ci sono diversi strumenti che sono messi a disposizione, oltre che dagli istituti bancari, appunto da Poste Italiane, perché i nostri pensionati possano scegliere. Noi partiamo con strumenti che sono comunque storici, perché questa operazione di informazione con i pensionati l'abbiamo fatta già da tempo, ad esempio il nostro libretto di risparmio. Ovviamente lei stava citando l'opportunità che è stata data dal decreto sull'eventuale apertura di un conto di base. Cosa vuol dire innanzitutto conto di base? È un conto che permette la possibilità in pratica di un'inclusione di persone ai servizi finanziari di persone che hanno delle caratteristiche come reddito ISE sotto i 7.500 euro e che comunque si trovano magari appunto in una situazione economica come può essere quella del pensionato, non necessariamente grande utilizzo del conto corrente stesso. Perciò noi consigliamo sempre comunque una consulenza con i nostri operatori affinché il pensionato che scelga lo strumento che vuole utilizzare sappia poi bene quali saranno gli utilizzi, le funzionalità alle quali può accedere con uno strumento piuttosto che un altro, magari se desidera un certo tipo di operatività, se per esempio vuole fare anche nel futuro qualche tipo di attività che può essere l'accesso magari a un finanziamento o a un piccolo risparmio o a un tasso di interesse. I vantaggi quali sono? Vantaggi per evidentemente intanto diciamo che l'accredito in generale, l'accredito della pensione crea un vantaggio che è dettato dal fatto che la somma accreditata è subito disponibile, quindi non bisogna recarsi in un determinato giorno presso un ufficio postale. Sì, ma i vantaggi a livello di costi intendevo ovviamente. Vantaggi a livello di costi andiamo diciamo da un'opzione di conto corrente che può avere ovviamente come conto di base il totale azzeramento del costo, ma noi abbiamo anche degli strumenti come citavo prima, libretto di risparmio che non ha nessuna spesa di apertura o di gestione e magari consente anche di avere un piccolo tasso di interesse diversamente dal conto di base. L'oggetto che dicevamo, che anticipavamo, è appunto quello di capire bene quali sono le necessità della persona e dare comunque a tutti la possibilità di avere l'accesso a uno strumento per non trovarsi in difficoltà per poi il prelevamento della propria pensione. Immagino che negli ultimi giorni abbiate avuto un forte afflusso di persone che vi venivano a chiedere insomma informazioni su questi conti di base. Assolutamente sì, però ci siamo strutturati per tempo, è già da un po' che le poste comunque effettuano attraverso i nostri sportelli, direttori, uffici postali, un'operazione di comunicazione comunque dell'importanza dell'accredito, non solo perché appunto siamo arrivati a questa data e perciò l'importo sopra i 1.000 euro diventa poi non prelevabile in contanti, ma anche proprio per una tematica oltre che, come citavate prima, dell'evasione fiscale, in realtà per una tematica per il pensionato di sicurezza, perché accreditare diciamo dà l'accesso ad alcuni strumenti di sicurezza come per esempio mette a disposizione un'utile assicurazione gratuita contro furto, rapina o scippo per chi dovesse magari prelevare fino a un massimo di 700 euro nei nostri uffici postali o presso gli ATM nelle due ore precedenti. Grazie. Sì, grazie molte per essere stata con noi e per averci spiegato questo strumento in rappresentanza delle Poste Italiane. Grazie a Francesca Sabetta. Volevo chiudere con Gianni Trovati. Credi che la platea sia abbastanza consapevole di questa fase transitoria e che poi questo numero così alto, che poi tu giustamente ridimensionavi legato al fatto delle caratteristiche, no, di questa platea, lo vedremo diminuirsi giorno dopo giorno? Sì, penso che che vedremo diminuire questo numero molto in fretta proprio per appunto il mancato arrivo della pensione o addirittura il fatto che non sapendolo, non avendo guardato le comunicazioni, uno vada in posta il giorno X per ricevere la pensione e non gliela danno. Immagino che sia uno, come dire, una situazione in grado di far muovere quasi totalmente, diciamo, la platea dei ritardatari. Comunque, se qualcuno ha un parente molto anziano, un familiare molto anziano che come dire, ha una pensione, sa di avere una pensione inferiore ai 1.000 euro e non si è ancora preoccupato, diciamo, di questo adempimento, è il caso che lo faccia quanto prima. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, Nicola Forte, consulente tributario ed esperto del Sole 24 Ore, a Marco Lombardo in redazione, a Paolo Corleoni in regia. Da Valentina Furlanetto è tutto. Salvadanaio torna domani.